Dialogo 48. Raccontò Umar ibn al-Khattab, un gruppo di prigionieri stava per essere presentato al profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, e in mezzo a loro c'era una donna dal seno turgido, la quale, con viso su cui si leggeva una grande angoscia, correva a destra e a manca visibilmente alla ricerca di qualcosa. A un tratto si fermò e il suo volto si illuminò di gioia. Prese in braccio il suo figlioletto, se lo mise al seno allattandolo. Il profeta si rivolse a noi chiedendo: «Pensate voi che quella donna là possa gettare il figlioletto suo dentro il fuoco?» Noi rispondemmo in coro: «Certamente no». Allora egli disse: «Allah è infinitamente più amorevole verso i suoi servi di quella mamma verso il suo figlioletto».